c'è qualcuno qua. Claudio, ci sei? Sì. No, beh, guardando la strada partita, l'Inter. No, dov'è? Te l'ho detto, solo su qualcosa che ti ho mandato. Io lo sto guardando in questo momento. Sentimi. Aspetta, ti faccio, te lo faccio ascoltare da dove c'è l'altro parlante, lo aspetta. No, beh, quella lì la potevo guardare, ma no, non c'ero. La potevo guardare su Sky. L'altra, che è su DAZN, quella lì me la guardo stasera alle 8:30. No, ma puoi mettere anche questo coso. No, su DAZN. Puoi mettere, magari, io sto guardando su Arena 2. Ho messo l'applicazione, no? E poi ho cliccato su Arena 2. Mentre invece su Arena 1 c'è, mi sembra, pallacanestro. Ma io adesso sto guardando qua, è iniziata da 5 minuti una cosa del genere, da 5-6 minuti. Ecco, chi sta giocando? No, non è che me la guardo su DAZN, me la guardo lì in quell'applicazione, perché su DAZN, capito, non la danno su Sky il derby. E chi sta vincendo? No, è appena iniziata, 8 minuti e 47 secondi, mi è 50 secondi in questo momento. 8 minuti appena, 0-0, Inter 0, Udinese 0. Ah, non è Udinese Inter, no? No, Inter Udinese c'è scritto qua, Inter prima. Vabbè, speriamo che ti vari arrivarci. Chi lo sa, che lo sa, boh, vediamo, sentimi. Il commento è lingua straniera, ma si capisce, perché già dicono molte parole in italiano. Sì, ma stavo guardando l'applicazione, ci sono anche le lingue però. C'è italiano, spagnolo, inglese, tedesco. Sì, tutte le lingue ci sono. E allora? La puoi vedere in diversi posti, la puoi vedere. Non è... Io adesso la sto guardando su Arena, Arena 2, però la puoi guardare su tanti posti. Sport 1, Sport 2, poi su Sky, su DAZN, dappertutto la puoi guardare, dopo vuoi tu. Per cui, solo che io mi trovo bene su Arena, mi trovo bene, la verità. Speriamo me la possa vedere stasera, perché non c'ho altro. Il derby perlomeno lo danno lì, è su DAZN, capito, anziché su Sky. Adesso vado a guardare, dai. Ci sentiamo dopo? Ok, d'accordo, dai. Dopo, quando finisce il primo tempo, ti richiamo. Vediamo un po' se sei riuscito a guardarla. KK, dai, chiamami qua che c'ho questa accesa. D'accordo, a dopo. Ehi, a giù, a dopo. Senti, la cosa è bella, la cosa è bella, frate. Scuola, è bellucca. Ciao frate, senti questa piccola chiamata che ti chiama, gatto. Boh, non riesco a mirare tutti gli app, Super Guida TV, Guida TV Più, Italia, boh, non ho capito per cavolo stai guardando tu, Amazon, cos'è il tuo Amazon? Amazon è un trasportatore. Ciao Claudio. Ciao, stavo parlando con Giulio. Sky Sport, vediamo. Aspetta un attimo. Che hai detto Claudio? Sono Giustina, va bene. Abbassa le voci. Corre. Guffo, ci sei? Aspetta che sei stato. Mi cago spiel, buffo. Ehi, ha cambiato il piede. No, mi cago spiel, buffo. Ah, tu cambi il piede. Mi cago spiel. Non ho capito. Ti cambi il piede. Ehi, lo stavo messo in frigo il piede a rinfrescare, siccome c'è un lineare da un chilo fatto attaccato. Si è surriscaldato, l'ho messo in freezer un po', da raffreddare, poi lo salto. Eia! Vediamo se Giuliano, te l'hai atteso. Sei un abbuloso. Ma se sono entrato mi hanno offeso, mi hanno detto sardignolo. C'erano due ore. Scusate, ho lasciato un po' di bianco a far entrare gente. Questo qua mi ha detto zucca, da Milano, sardignolo. Ha detto, di là sardignolo, di là quel puntini puntini tuo qua. Ciao comunque, ma chi? Graziano, mi ascolti, avanti. Sì, che ti ascolto. Piccolo e nero sono. Ah! Questo sono piccolo e nero. Aspetta che spendo questa radio. Ecco, cosa hai detto, piccolo e nero? Claudio! Cambio. Mi senti, Claudio? Claudio, sono Giussi. No, che c'era sentato Claudio poco fa. Ho capito, ho fatto un po' di castagne poco fa. Ma gli ho messo, siccome quello cucina, poi gli scusi un po' di acqua, no? Per farle cucinare. Forse ne ho messo troppa e non si staccavano bene. Comunque erano buone, dai. No, oggi l'ha comprato Paletta, il cucci castagne, quello con la marca. Quello di ferro, quello di... perché io stavo usando quell'altro. Però già ce l'hai tutti, ma la manica è smontabile, capito? E poi questo è più grande, non lo ha preso. La manica? La maniglia? La maniglia, quello che ho io, puoi metterla e tirarla la manica, capito? Invece questa è fissa e viene bene, poi è più grande. Okay. E tu, Marchisio, c'hai la maniglia per tirare le castagne? Saina, lascia Saina, grazie, ne so io. Ehi, vabbè, cosa la puoi chiamare? Manico, maniglia, sempre un manico, vero o no, sempre, ma se si arroba la rostina, sempre tutto volo. Oh, grazie, ti fa un giorno, due giorni. Le signora, fresca, fresca, appena fatta dall'altro. Chissà che è buona, altro che quella delle russi, fresca, fresca, parliamo con un soffro, andrà a tagliare, lascia stare. E ti fanno adesso, la stufa, ma le saranno dura, un giorno, due giorni, tre giorni? Dipende dalle giornate, allora se l'accendo a mezzogiorno, oggi mi sembra che l'accendo alla una, sì, alla una. E mi ho già consumato quasi tre quarti, perché l'ha alzata la temperatura, oggi c'è freddo. Ho capito, dai. Dunque più o meno un sacco ogni due giorni, dai, due mezze giornate. Beh, ascolta, altra cosa, Marina ha comprato lo zenzero, l'ha bollito, ma vuole bollito spezzettato o vuole bollito intero? Io penso, non è mai fatto un zenzero, se non l'ha fatto Paletta, aspetta gli occhi. Vediamo un po', Marchisio, tu cosa mi dici, lo zenzero non vuole. Claudio! Com'è il pezzo? Ehi, vai 10. 4 che ha fatto pulita, poi questa bollita è intero o a pezzi? Non lo so, bisogna chiedere a mia moglie, perché mia moglie è la poca, io sono mangiatore. Dice che fa come per la mia bollita, praticamente il intestino, insomma per tante cose, dai. Alla fine è un medicinale. Buonasera. Quando è tutto commestibile già va bene. Mia Gio Maria, mia, bella Gio Maria. Buonasera anche a lei. Ciao Lu, buonasera. Buonasera anche a Bacchisio e buonasera anche alla chef. Bollito vuole quello, oh Lu, bollito vuole, Luca. Sì, ciao, dimmi tutto, non stavo parlando con Maria, dimmi. Ha detto che pesce che vuoi bollire. No, allora stavo... è una radice, lo zenzero, non so se vuole bollito così come lo compri o vuole fatto a pezzi piccolini, non lo so, tu cosa dici? Ma noi lo vogliamo intero. Allora con la radice bianca. Ah, ho capito, Giovanni, intero l'ho bollito, ah, ci ho preso. Comunque l'ho bevuto, è un po' così, piccantuzzo. C'ha il profumo della soda, all'arancio. Ma cos'è, bianco? Sì, sì, bianco. Insomma, tartufo sembra. No, non è mai fatto. Non ha mai buttito. Cioè, mai comprato. Pizza bianca c'è la giubiliata, che sembra un ravanelli lunghi. Quelle voglio bollite, rimane in rampe. Non so che vogliono bollite, grazie, però pensavo volevo spezzettate a pezzi piccolini. Invece Gio Maria mi stava dicendo che vuole così, come lo compri, lo butti, lo sciacqui. No, vabbè, scusa, ma il succo non è, il coso non è dentro, in mezzo al... oh no, non è sopra. Scusa, anche nel mezzo. Vabbè, ma non esce quando, come devo uscire, vabbè, dai. Mi posso informare? Guarda che loro, guarda che Gio Maria ha più esperienza di lui, se permetti glielo chiedo. E come fai la carota? Così fai quello lì, capito? Ah, ok, bugiato. Ce lo chiama Zengero. Ma come si chiama? Non si chiama Zengero. Io quello lo compro, le radici, che rimangono amare. Non lo so se rimango, è strano comunque quel sapore. No, Gio Maria, lo ti stavo dicendo, ma vuole sbucciato, no? No, noi lo puliamo col coltello, bello fatto, e le passiamo il coltello sopra così, ne togli il limo che c'ha e basta. Ma tu lo bollisci, lo bevi, Gio Maria? Eia! Va bene, è vero, l'intestino, così, vero? E poi si possono fare in tante maniere pure, però l'unico è abolirlo, vai. Ho capito, là. Avanti, Bacchisi, come vai? Io ti ascolto bene, Non so se ti ascolta Gio Maria, avanti. Ti sento, sono Bacchisi, ti sento benissimo. E anch'io sono col piccolino. Un attimino, ma ti sento qua. Mentre siamo uno vicino all'altro, per forza ci sentiamo. Ah, va bene, Bacchì, va benissimo. Oh, Zenzero, io lo conto visto, quando lo piglio. E poi lo conto quello su da riva insalata. Però rimane un po' amaro, parlo meno. Si chiamava Zenzero, non lo so, radice lo chiamo. Beh, va bene, quello fa bene. Va bene dentro, va bene il tuo sacchetto, quello fa benissimo. Già le compro una volta, ogni volta di mamma già li compro, ma non è che ci vado molto matto, va. Ma è così, capito, bollisci la ruba. E da voi infatti lo condisci, beh, è buonissimo, è solo che c'è questo amaretto, però a chi piace, a chi non piace, capito? A me mi piace parecchio, capito? Sì, già è buono, lo è male, ma però Bacchì le pianta solo e basta, le dà gli altri a mangiare, così a Bacchì, ma si trovano, strano è. E all'agricola sassarese forse li vendono. Guarda che magari li trovi all'agricola sassarese, anche da Borgarde, lì c'hanno un sacco di semi nel semenzaio, magari lì ce l'hanno. A Borgarde devi guardare, io li avevo visto un sacco di semi, pure a sacchi ce n'era. Ah, ma se mi vende un Zenzero! cambiala! Sì, va bene, Bacchì, lascia così, va benissimo. Ah, non c'era la batteria del ricambio. Beh, Luca, caduto sei! No, cercando di buffarmi il naso, mi busso più. Fuori di rubicchi, sì! Se mi metto quello perdo sangue al naso. Il pistola ti rubori, non nel naso. No, io c'ho il Vixinex, capito? Quello nasale. Ah, ce l'ho anche io quello, ma c'ho anche quello a pomata che ti metti in pistola col vasettino. Quello è buono lo stesso. Sì, ma non ce l'ho quello, lo devo comprare. Beh, vabbè, già passerà, si può passare. Il tempo è visto. Tu ma la portua, Eva. Ah, diciamo che già mi aiuto col Vixinex, dai. Ce l'ha presa anche Marina, perché anche lei è tasata. Possiamo usare un unico Vixinex. Poi lei sì, c'ha il suo e c'ho il mio. Beh, ognuno c'ha il suo, no? Io uso con l'impomata. Me lo metto con il dito, me lo metto vicino al naso, va? A chi si segheggia? E pistola. Lo so, pizzicheggia? Sì, se te lo metti nel naso, sì, io me ne metto un pochettino all'entrata del naso, così. E quando respiri, mi sale da cremiti nel vaso e varà. No, io pensavo che pizzicava di pittorra. Sì! No, nel naso, no, come respiri. Si fa pizzicchini, sì, perché è un bel forte. Come le lacrime di quasi farà, perché è forte lì. Già lo so. Ma c'è anche quella pomata che usano, che mandano i cinesi, quella pomata di tigre, brutto, non si chiama. Quella lì ce l'avevo, però no, ce l'avevo, quel tipo di mal, come profumo è simile, quasi simile. Lo sai che era buona anche quella, l'avevo finita quella. C'avevo anche pomate per quando ti va di mare un buzzo, un braccio. Ed era buona anche quella, l'ho finita. Sì, Gio Mari. Dimmelo. Te ne graziano, l'ha finita la pomata. Lui è pratico di queste cose perché se non li mettono le pomate lo scivola, capito? E per forza ci vogliono le pomate. Si lo fa male, capito? Si chiede, lui mette le pomate, capito lui? Luca, c'ho anche la vasellina, l'ho presa in farmacia la signora Turnina. Ce l'ho, tu metti il cazzo, se te ne serve un po'. Ah, ma pure la vasellina, bambi, io sono vasi così strani, non ho più bisogno di vasellina, lo sai, no? E ho dato lo zuariva. Ti impreazzi tutto, bello, diventi lucido, lucido. E non attacca nulla, buio, da buio. Boh, sai cosa se ne fa dentro la vasellina, ma, Gio Mari, io non ho più bisogno. Poi scivoli che è una meraviglia, lì che cosa, bisogna di altrimenti non ti si fuggi da mano. Per carità, Bacchi, che Bacchi se si vede che ha messo a caricare la batteria. Luca, ma quello dell'elefante tu me l'avevi mandato. Sì, 30 elefante. No, l'ho visto, mi aggabba. Pacarita, te lo vedo un credo, una cosa del genere. Perché? Perché ce ne sono elefanti grandi? Avanti, chi è? Ah, Bacchiso, sentivo qualcuno stava chiamando. Ti ha richiamato Gio Mari, avanti Gio Mari. Ho detto che Bacchiso stava mettendo a posto le batterie, così, a caricare batterie, le batterie Bacchiso, così. Mentre che parli si carica da sola, no? Luca, hai visto quando è arrivato quel carro armato? Ah, ogni giringata, tutta appugati là. Ma secondo me sono cose... Non sono cose reali quelle, fidati. Secondo me sì. Oh, Luca, ti sei morendo di ricordo. Non puoi fare allora, Luca. Cosa mi sono commuovendo, non ci ho compreso, no? Che è? Avanti che vuole entrare! Avanti che vuole uscire! Oh, lui! Hai visto? Mi si è appena pigliato dalla rete, piccola! Allora io molti video, manco li guardo, vado nel coso, come si dice? Nel telefono, dove si accumulano, diciamo, là, nella galleria di calzondutti, manco una baita. Quando ne arrivano talmente tanti che non chi me ne manda? Una volta ne ho mandato uno io, che eravamo in mezzo, ce l'avevo intravisto, su in tutti gli siti, e poi lo faccio per ridere, e allora non me ne mandare, mi manda, pure mai se mi guarda e mi dice a me, quindi io purtroppo sono questi, ho fatto un cassettone, l'ho fatto, infatti ce l'ho mandato a quel paese. Mi mandare un bello, un bello di voi, ma pure Giovanni rimane in video, Giovanni pure a te rimanda, no? Se si filmati, no, da Rosaezzo, non ne voglio io di chi si filmati, chi usa e chi ha mai da Ezzo, capito? Certi sì, per esempio come quello che è nel bar che si ha zuffente, chi da buona l'ha imparato in capo, quello me l'ha mandato lui. Vabbè, quelli gli altri che spinti no, non me ne manda perché non li voglio vedere quella roba. Ah, quello del bar te l'ho mandato, hai visto? Chi c'è a Napoli, mi ha bucato una picciola e l'ha fatto un secco, a te va pure. Cazzo, vedi coraggio, cazzo. E a Napoli ne fate di ogni colore. Vabbè. Quelle sono cose che si possono vedere benissimo, capito? Ma certi filmati, magari tu li guardi che ti piacciono, a me non mi piacciono quegli altri spinti, capito? Anzi, quello là veramente è entrato per fare la rapina. Gli danno ad aprire la pistola, gli ha pigliato la pistola alla mano, l'ha strappato in terra e l'ha fatto il secco. Una pistola di ghiaccio. Bravo, Facchi. Il nostro Graziano. Anche Graziano ne ha di tutti i tipi, di tutti i colori. Bianchi, neri, rui, vero Graziano? Se poi te ne mando uno, mi. C'ho anche il calendario. Senti, Bacchi. Non ne ho il numero tuo, neanche Tore me l'ha lasciato a chi filmi. Ti mando il video. Ma lo sai perché? Perché noi siamo persone serie, capito Graziano? È sicuro, vai che non gliene mando sia che cambia di cervelletto e ne brinca nanto. Bacchi. E allora è per aiutarlo a spingerlo. Ma Tore non gli accetta di queste cose. Me l'ha già detto, così che non le manda a Tore. Quelli li risvegliano il leone che c'ha dentro, Bacchi. A Marino già li rimando ogni tanto, vero Luca? Ehi, ma io ripeto, quando me li mandi manco li guardo nel cancello, ma noi tutti. Poi se vedo che uno tipo sassarese me lo guardo, sì. Mi hai mandato tutti così porno, dai, non andava bene. Cioè, io mi rimando a 30, 40, infatti non mi ha fatto e continuavo a mandare mini, intanto lo blocco. E la macchina incidentata me l'hai mandata tu però, di quell'incidente. Ma guarda, io quello lì, manco ho visto l'avevo quel video, l'ho inviato, poi l'ho guardato, tu che l'hai mandato, ma come non l'hai mandato a parenti, sennò guai, veramente, no, manco ho visto, facciamo forse un incidente veramente, poi l'ho aperto, io no, non ci credo. Ma io me l'ho immaginata. Cazzo di biglia, cazzo di biati a mandarci così a Graziano, Lui, un bacchi. In sciacca due per avere queste cose, cazzo. Ti cambia di segno, ma lì, a mai tu, cosa mai tu? In un calendario. Aspetta, ma che cos'è che hai detto, Graziano? In che mese sei tu che guardo il calendario a vedere la fotografia, cosa sei? No. Io ho un calendario nuovo, c'ho la Sardegna. così che tutte le porte della Sardegna, la maggior parte. E boh, non ne voglio vedere altri. Ma io voglio vedere se la competeva con te, col tuo mese, mi capita, diglielo tu, Luca. Ah, non la so qui, non la so tuo marito. Fatti serio, grazie, fatti serio, dai. Da bravo pisino. Ce lo trovato, lo guardo solo io. Ma chi diglielo, diglielo tu, gara. Allora, tuo marito, lui vuole che tu dici che mese sei. Ma solo guarda lui mica lo guardasse così, vede che mese sei e che foto c'è, beh. Sei compatibile con lui, no? Ah, bravo, grazie. Fai la bravo, grazie. Sì, non sbaglio, mi pare, ma mi dici che è di febbraio, giù. Stai calmo, se non ti sentono. Allora sei di febbraio, adesso vado a guardare, là. Ma chi? Glielo dico, così. Cazzo, ma tu che sei in parenti tu a graziare questi cosi, o è tu in parenti a te? Tu in parenti a me, io mi parlo a te, prima non di me, quante volte si dava video, scusa? Aspettale, per dare, grazie. Bene, sei messo bene, qua sono contento, Luca, andate a posto. Ma non te l'ha detto un mese, baro Gio Maria, quanti dire il mese? Febbraio mi sembra che mi aveva detto l'altra volta. Dai così, avanti, altro voi. No, già va bene, va bene, già da vedere. Vabbè, si andava per te. Vedo così. Oh no, ma chi? Mandamelo così te li mando. Ce l'hai tu, WhatsApp, Messenger, Istanbul. Manda tu. Adesso cos'è fra giugnini, non gava ma di un buco, zalando, dopo mi ha preso le scarpe, e poi un altro, è pieno io al telefono, va, venivo un altro. Ma figlia, vieni un altro numero, fa poco, capito? Questi che chi si rubano la base e ti conservi, a famosare, diciamo, bacci. Grazie. Tu buoni sempre, da voi l'ho visitato in più, devi migliorarci il telefono. E allora, più mano, questi mi risate di più. Fai così, fai così. Cazzo. Vedi, mi aiuta anche questo. Ovo si chiama. Un altro sito. Bene, whisky. Alibaba, va giù, un bene, Land Rover, Lengri, Bulli, Sengresi. Dai, così è Bacchì. Ponendo, sempre morendo e ponendo la base, capito? Fra poco si rubila un altro telefono. Ah, si appacca la briga e si rubila, va. Luca. Mi sta scrivendo una ragazza che abitava a Sassa di prima, adesso se n'è andata fuori all'estero, comunque fuori, dai, fuori dall'Italia. Ha proprio il computer, mi sta spiegando un po', dunque ha preso colpo questo computer e ha danneggiato l'hard disk sicuramente, perché gli fa una schermata, non la fa andare avanti. Hai sentito, grazie. Fuggiumati! E mi li ha rimandato gli azzurri, me, ecco, aspetta, tanto si divisti con questi cosi, cazzo, bacchi, cazzo, chi sono drommi, la notte non drommi, sempre a vedere questi cosi, tu, però mai a cocca separatamente, se non rosi te la devi accusare un macone. A te lo mando questo, Giovanni. Stai calmo, grazie, stai calmo. Vedi, non si vede nulla. Prova, da. Meno si andrò pipita, che sennò ti lo dovrò mandare. No, aspetta, sto guardando questo. Non si può fare né pene né lana, bacchi. Grazie. Oh, yeah. Bobbo, lui non va a secondare. E poi strano, ma deve essere che sia andato ad accompagnare il nipote per giocare a pallone, se no sarebbe stato qua. Evidentemente con il nipote, capito? Che poi ma fra qui, prima delle 8 già entra, dai. Ehi. Marino, sei sentito? E anche lui deve essere indaffarato, E lui entra magari la sera quando non c'è niente a fare, ma è giusto che sia così. Quando c'è un po' di tempo libero lo entra, se no... Ma insulta, sento impegnato anche lui. È bello come l'ha fatto, ma ce la stai imbellendo ancora, non lo so. Adesso sono da parecchio non ci passo, È un 4 mesi solo che non ci passo. E per cui non so come lo sta facendo. Ma forse lo sta pitturando a oro. Allora hai già parlato per quello che ha più retro, dai. Ma è giusto che sia così. Tanto già è lì, per cui quando rientra dal lavoro e sa qualche cosa a fare, se lo può fare benissimo, tanto abita lì. Quando abita lì è tutto un'altra cosa, viene più bene, dai. Non è come me, no, che devo, o come sei tu, Bacchini, di scendere in campagna per fare qualche cosa. Lui è già lì in casa. Ma io sei tutto, sai, tutta l'altra di manna, dici che fai le cose in casa, invece abbandonisci così, e lui non drommi, è puntato con questi cosi che gli piacciono queste cose. Ma così la baita si può fare diversamente, capito, Bacchino? No, chi c'è la verità, io sono manco, chi mi ha mandato? Sono a vedere la fotografia, però non mi ricordo chi è. Mi pare la faccia di Marino, mi sembra proprio Marino, Il numero ce l'hai, Bacchino. Il numero di Marino c'ha nel telefono. Se c'è il numero del telefono di Marino. E come finisce? 0334. Luca. Finisce 0334. Cosa? Allora è peggio, mi deve mandare niente, il segno. No, è stato troppo impresso, non si era compreso in onda. Allora, aspetta, te lo rimetto. Senti, perché nessuno ti sta parlando male, prima di tutto. Hai capito, Paola? Moderati, perché io le palle non te le sto rompendo. Perché se io e noi stiamo rispondendo a ciò che stai dicendo, moderati le parole, perché se vuoi litigare, vai a litigare da un'altra parte. Perché noi stiamo scherzando nel gruppo, ci stiamo mettendo armonia tra mamme. Se tu vuoi mettere, non vuoi serenità, sono problemi tuoi, ma nessuno ti sta rompendo le palle, parla bene, perché se vuoi prevalente, non siamo lì a... Fai la tua vita che gli altri si fanno la sua, ci vuoi venire con me, ci vieni, non ci vuoi venire, non ci vuoi dire, li vuoi mettere su, ti rimetti, se no fai un cazzo che ti pare di piatti. Ma chi sei, Giua? No, aspetta a vedere. Chiamate fissi mobili e SMS illimitati, 8 giga di internet, il tutto 22 euro mette. Lei è aziendale, io privato, signor Carina e simpatica. Parlo? Carina e simpatica. Ok. Con chi parlo, mi scusi, signore? Basilio Frosca. Basilio. Signor Basilio, lei è aziendale o privato come team? No, io sono privato. Ecco, appunto lei ha sorriso, perché? Perché per l'aziendale, diciamo che le tariffe sono un po' chiare. Ah, te lì! No, perché ha anche... Faccio il fattore, Ah, fai il fattore. A niente mi servono. Ne servono, giustamente, giustamente. No, a voi io metto, a niente mi servono. Ah no, come vendi, no, servirebbero pure volendo, ma siamo un po' scarsi. Andiamo, ve ne diamo vivi oppure ho già macellati oppure magari ve li prendiamo già anche a rotto e ve li serviamo. Certo, e beh, sono anche buoni perché lei dove abita lei, sì. La carne è molto buona in quanto c'è buona, mangiano bene. È pure fatto. Gli animali, giusto? Noi pure fatto le abbiamo, niente inquinamento, pure fatto. Questo dicevo, assolutamente. E quindi so benissimo che... Alte giurai! Ma chi? Se non l'ascolti bene, non lo senti. No. Boh, mi pareva una bappera. No, è una di quelle call center che telefonano, che ti chiamano per la linea telefonica. E chi c'era di genere, se gli interessavano chi sua età? Agnelli, anche a 20, giusto allora veniva già, pure cotti, pronti a infornare, o se no anche cotti, pronti da mangiare. Ogni tanto ne intendi una bacchì, se vuoi fare. E poi a qualcuno gli piace un bene, a cucciarli. E ho cantato cose del genere e da quel telefono subito. Marino, ci sei in ascolto? C'era detto già, usando la fotografia in piscina, con un figliolo, a moglie, fotografia d'estate quella. A quella moglie, E allora? Me l'ha mandato lui un paio, adesso non li ho neanche tutti guardati. Luca! Luca si sta mangiando le radici. Chissà che riesce a senti galli. Me l'ha mandato uno, Gio Marino, di un neonato. La mamma ne ripiglia un cellulare dalle mani. Deve vedere che il tuo neonato. Cosa va a farà? 6-7 mesi. L'ubietto che ci ha fatto, si cusa a terra, si battoreggia tutto quanto, gli torna il cellulare e gli passa tutto. Venuto a pigliare la pasta si cosa, si schirri, dove vede là che pare a motorino muovendi. Allora ve lo tornava a si cagliava molto. Ebbene, se l'hai fasciato, si l'hai cutta a terra, o è tu sei cutta a terra? Tu era abusato in terra, Ida. Ed era con un cellulare, la mamma veniva appigliato, da mano, no? Tu mi vedi il tuo piscino, mi si viene a giungere un mano, aspetta che guardo. Vedi un po' se c'è Tore, Tore non sei ancora con un ribote, dai. Si sta guardando la partita a Bacchì. Luca, cos'è Bacchì? Dimmi, non lo sento. Ma il telefono ce l'ha tu. Ma cos'è malato? Ce lo potevo accendere il PMR. Me l'aveva mandato la fragusa di un cucciuccio. Beh, non ce l'ho più quello. Stavo guardando da bacciato, lo ciuccio. Viene mandato a me uno di cagnolino, quello come si chiama, con lo scialle irachina, non sarà Marino, no? No, non ce l'ho più, se no te l'avevi fatta la rezzata. ma capa, arriviamo domani, oggi non la giocata del ridì, vero Bacchì? Non ho capito. No, il facciato, no, sta sempre, e ce l'ho vicino, ma che strano è. E adesso scendo. Prego, prego! Ha fatto il prego. Cata, non mi sentite? Da, ti sento con le orecchie, ciao, buonasera. Vado bene. Avete guardato tutta la partita? No, ero a spendere soldi, ero a spendere la tredicesima. Ah, speriamo che non l'abbia spesa tutta, però, rotto. Lascialo un po' a domani, non fa come il Chiusa Seresio, che arriva domani, arriva i cani. Sì, si sarà pushata via un bel banco dei pagamenti, si sarà pushata. Comunque, buonasera Bacchisio, buonasera Marino e buonasera Giovanni. Graziano, lo chef, che mandezzi certe cose, mandezzi a uno e all'altro. Sì, catta, non lo so, guio, bubu. E la garuva, cosa vuoi fare? Vero, Bacchi? Asso! Attenzione, Marino, se mi ascolti. A me mi pare sia gaggiuto. Io non l'ho sentito. No, nemmeno io. Attenzione, Marino. Ma sicuro Bacchi sì che c'era Marino. Vabbè, dai, io chiedo che c'è Marino, ciao, ciao. Ciao, Tore, ciao, Bacchi, ciao, Marino, ciao, che è nato. Mi raccomando, i saluti. No, Drombì, poi dei cecchini luci a guardare tutti questi cose. Ciao, salutoni in casa, dai, ci sentiamo domani, ciao. Vai, Bacchì. Ciao, grazie, fammi bene. Sta attento però, Ok. Riprendi Bacchi. Ciao ciao! Ma chi stai dicendo Bacchi? Ah, non abbiamo compreso. Andave. Riprenditela Giomari. Lascialo mandare, almeno si saga. Per carità. Adesso su questa scena vigili. È importante ammazzare Gasserura, dai. Tanto, ma fai come sta. È così, Allora, domani ho messo acqua, così è to. Ah, boh, ancora il tempo non l'ho visto, dopo mi lo vedo. Fra 20 minuti, lo vengo. Ci dovrebbe essere Rai 3, telegiornale ancora. Forse le cose non l'hanno dati, le previsioni non le hanno dati. No, a meno 5 le danno le previsioni, meno 5, le 8, da, qualcosa del genere, quindi. E vabbè, c'è brutto, pazienza, già sono andato stamattina con Sciuine, quindi non ne ho preoccupazione. Vabbè, ma chi? Non c'è bisogno di mettersi in faccia, tanto scegli. Accenderai tu, fatti fermi nella casa, così è. Cosa poi non si può fare niente, purtroppo, lascialo fare, ciao. Anche io sono sceso in campagna stasera, ma sono sceso così, tanto per... Era annoiato, mi ha detto, a farlo, ho fatto un po' di mangiare i sigliati. Ah, tu la tromata stasera venire, amico, come ti intende il rumore della macchina mia? Non c'è il rumore, va lontano. Tutti i sigliati di chi si rivisi, tutti da me veneni, a chi sanno che li pongo a mangiare, capito? Se no viene una quindicina. Catta. Sono sceso così, ho fatto un giretto, mi sono fatto un po' di mandato dalla caminiera, sono dalla caminiera, a terra Mattesi. Però adesso mi sono entrato anche tu, quell'eba tutti fusa, anche da me, è sempre fusa l'eba, capito? E allora mi sono entrato, e non vedo quando è fusa, capito? Un'oretta così e me ne sono cazzato, va. Addirittura lo vedo. Ma non l'ho già avuto, bisogna fare un... Dimmi, va. Una trentina me l'ha già fatto e basta, cazzo, ma ho buttato il mandato, ma già fatto, sta la cammina Mattia adesso mi sono che c'è la zucca, boh, culo vemmo, strano è, ma che? Avevo vemmo la razza, boh, non ho visto mai la razza, culo vemmo, altra, boh, tutti, la bruna a vedere, non ci sa mai. No, e parte la prima volta, cazzo, mi sei molto un così la legge a paga, cazzo, lo vedi per me, io ho messo di lungacco per un draio sotto, quando rubigli, cazzo, si sa che avendo sotto il draio, ma la lancio un po', a pensare che aspro e per cui non dovessi attaccarmi, non lo so, ma chi? Ciao che ha mai di bar sicuro, strano è, e allora se ne mangi qualcuno prima di mangiare già la baiglio, bar sicuro, mamma mia, no, per un cacco, ma rispetto lo gioco, vedo, quando è troppo cotto, poi lo memo, capito? Ma tira avanti proprio, mi sembra una cosa strana, però si utilizzate con dei ravici e con dei viso che è possibile pure si attaccare all'alzo. Vuol dire che lì sono messi i vermi, vuol dire che la pianta quest'anno il frutto te lo dà ma guasto. Vuol dire che ha preso troppa acqua, e se ne è pulito rovemmo. Sì, ha preso troppa acqua. E poi forse che non la devi fare, guardate, sempre vendeva. Che non la devi fare, non ha fatto. Un attimo, c'è qualcuno che vuole entrare, avanti. Cazzo. Ah, ma certo, l'importante è col ciccalino, tiro, e lo entra. Va bene, ma chi? Parlo sicuro io, prima di mangiarlo, cazzo, lo controllo, lo controllo, ma che mai detto così, parlo sicuro. Infatti, Barisano, che c'hanno Barisano, c'è maturo un burro, io pensavo che erano entrati abbastanza un minuto, in questi pochi mesi, ma si è maturato, e ti dico che è fino a un bel venaggio, o se no, una filimone, cazzo, una cosa incredibile che c'hanno. No, non è bianco, giallo, bello, tranquillo, con un giallemone, burro, ma tu lo burro, Cazzo, era giù fatto la resina, stasera, delle palle grosse sembrano, bello, veramente bello, Invece hanno ambasciato fino alla rimanco, che ci hanno invece appiazzato, E a pensare, forse a chi l'ha giù buttati, a posto più maturo, che ci hanno, ma che... Ma mandare un libro se bacchi, ci fosse vedere la campagna mia. E allora sarà parola sanità. Tu fare un camminetto, la legna mi interessa. Sì, io la mia regalata, mi dà poco legna, cazzo, faccio un regalata, cazzo. Non faccio passata, due. Cazzo. Ah, che sui visivi, se la portate che sui visivi, che tu farà seminare, farà a casa, due chili. La giornata era un bel mi aveva 5-6 quintali veniva, sicché si strappa sapere che si vigila, chi ha, non ne voglio vedere in mezzo alle scatole di niente, è sempre pulita la campagna mia, la legna secca bisogna bruciarla, adesso fare un carrellino, no? Io davvero battessi. No, e a te legno non ti ricevi, no? No, non ha giù camminetto io. La mia, no, la stufa che c'ho non ne brucia legna. Che mai? Dimmi tu. Ma e poi ogni tanto ti pare, ma così riprendi, che se non è che eri impegnato di qualche persona, no? Che mai? No, mi hanno mandato un messaggio che c'ho un problema con il computer. Però purtroppo non è qua in Italia. Ma non è che è Sassari, ecco, è all'estero, e non è che la borsa giù da più di tanto. Già da ve. Ah, tu la scappa a Roma la mangiare, lui si ha il tempo. Eia, a che ora? Magari dopo le 9. Eia, va bene, dai, faccio un salto. Ma lì magazzino siete? So che magazzino. Eia, da ve Giovanni. Ok. Capito come... Allora, donna, la Zemirea, così che già fa la stufa a passare la Zemirea. Beh, se Marino fa la Zemirea, così è... Ma chi... Ah! Adesso ha passato un po' Lucca a Buru, la sabuccia. Si ha tagliato a pezzi. Parbe di cume. Quindi è rimasta ancora, si strabuzzava. Se non si trabocca la camarina, quindi a poi si tira. Infatti, no, anche io non ho già fatto più, no, faccio lo bebbi come a te, sì. Però non ho già fatto più, no. Oh, cazzo, e ricchivo, ho pido solo un carbone e basta. Così che no, brucio tutto, la legna, la BP se la brucio tutta canta io. La legna grossa è chiaro che la bocca la bassi e si venga a culo che la povera dopo. Ho cantato a Bacchì, se cambia tutto anche a tuo cuore, ci sentiamo male, se Dio vuole, buon proseguimento in serata. A risentirci. Ok, a te Tore. Ok, ciao Bacchi, stammi bene. Comunque è messo pioggia di pomeriggio. Nuvoloso di mattina e pioggia di pomeriggio. Ok, ci risentiamo domani Bacchi, se tutto va bene. Ciao Bacchi, dai, salutoni, buona carica, buon tutto, alle prossime. Saluto dal QRA, ciao. Mi sono già quasi le 8, per cui gira. E ci vediamo tutti, ciao a tutti. Fra poco si... C'è un po' d'appetito, che a pranzo ho mangiato poco, non si chiama il bar che tanto, ciao a notte. No, ci sentiamo domani, vai, buon proseguimento, saluto di casa, ciao Lu, a domani, ci sentiamo, buon proseguimento, saluto in casa, ci sentiamo, chiudo. Ciao Giovanni, dai, ci sentiamo, ciao anche Antone, a domani, ciao, buonanotte. Ok, ciao Gianmarì, ci sentiamo e ciao Luca. Ok. Sì, allora ci sentiamo molto, adesso anche noi andiamo a cenare, dai. Io vado un po' di telegiornale e poi a cena. Ciao, alla prossima. Sì, ok, ciao.